Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. OptiCities, ovvero Optimized Sustainable Mobility in European Cities, è un progetto europeo sulla base del quale si è costituito un consorzio formato da 23 partner provenienti da 8 diversi paesi UE. Dentro ci sono 6 città, varie università, istituti di ricerca, providers e data provider, industrie delle telecomunicazioni, e c'è anche Eurocities, che è l'associazione europea del trasporto pubblico. Scopo del progetto è dar vita a esperienze pilota in varie città europee per sperimentare soluzioni innovative di mobilità sostenibile. Nella puntata di ieri abbiamo visto come a Torino, che da poco è entrata a far parte di questo consorzio, si sperimenterà il primo navigatore multimodale in real time, una sorta di Google Maps molto avanzato. Per esempio, se volete spostarvi con i mezzi pubblici, vi suggerirà il percorso e quali mezzi prendere, ma questo in base alla posizione reale dei vari mezzi pubblici in quel momento lì, dal metro ai vari bike sharing, in base al traffico realmente presente in quel momento sulle strade e persino in base alle previsioni del traffico di lì a un'ora, insomma roba da matti. Ma dicevamo, si tratta di un progetto che coinvolge molti attori e molte città a livello europeo, e la professoressa Cristina Pronello, che è responsabile scientifica del progetto in corso a Torino, è stata con noi ieri sera a parlarcene, e precedentemente anche lavorato in Francia al progetto madre alla base di OptiCities, quello che si è svolto e si sta svolgendo a Lione, e la professoressa Pronello è tornata a trovarci. Buonasera Pronello. Buonasera a voi, è un piacere essere di nuovo con voi questa sera. Allora, a questo punto a lei la parola. Quali sono gli obiettivi principali di questo progetto europeo e quali le ricadute attese? Molto brevemente, gli obiettivi principali sono 4. Sistema di governance tra pubblico e privato, quindi identificare come pubblico e privato possono collaborare per avere dati di qualità sulla mobilità e definire una politica di accesso ai dati, arrivare verso l'open data. Secondo collegato, definire uno standard europeo per definire database che possano usare tutte le città, quindi qualsiasi città in Europa, trattando di dati multimodali su tutte le modalità di trasporto. Terzo obiettivo, estremamente importante per le amministrazioni, definire quelli che si chiamano i decision support tools, quindi dei sistemi di supporto alla decisione, basati sia su dati reali che su dati previsionali, per gestire in modo proattivo i trasporti, controllare il sistema dei trasporti e integrare perfettamente traffico stradale privato e trasporto pubblico in città, compresi i modi dolci, bicicletta e piedi, con i percorsi ottimali. Terzo, definire un navigatore urbano multimodale real time. Non esistono attualmente al mondo, posso dire che è una prima mondiale. Tra l'altro, chiunque abbia provato a usare le varie funzioni tipo Google Maps sui mezzi pubblici sa che non è proprio pessima la situazione. E questo sistema multimodale real time è interfacciato totalmente con i sistemi di navigazione sull'auto. Non esiste al mondo al momento una cosa del genere. Ultimo, supportare gli operatori nell'ottimizzare le consegne delle merci nell'ambito urbano, che è quello più problematico. Certo, abbiamo parlato, diciamo, dei benefici che può ottenere l'utente finale, il cittadino che usa i mezzi pubblici, nel avere, diciamo, un percorso ottimo per raggiungere la propria destinazione. Figuriamoci nelle mani dei gestori della logistica questi strumenti che cosa possono produrre come risultati. Ecco, senta, mi interessa molto che lei ci racconti quello che è emerso, perché sono venute fuori delle indicazioni molto importanti già dalle prime fasi del progetto, in particolare da alcune interviste che avete fatto a Lione alle cavie, chiamiamole così, cioè a coloro che poi sperimenteranno questo sistema. E, appunto, dicevo, indicazioni molto interessanti, sia delle opportunità, cioè delle cose che interessano all'utente finale, sia delle cose che possono però minacciare e segare alla base, diciamo, i presupposti del successo di questo tipo di progetti. Gli utenti sono i nostri tester, quindi senza di loro non si fa nulla. A Lione ne abbiamo 50, quindi avremo 150, quindi su scala più ampia, e abbiamo fatto 6 gruppi di discussione, ciascuno con 8-9 persone, approfonditi di 3 ore, dove sono emerse moltissime indicazioni sulla base di uno stimolo che io man mano davo ai partecipanti. È venuto fuori sicuramente che l'aspetto fiducia nell'applicazione, attendibilità, dei dati che vengono forniti e velocità nel fornirli, e sono basati su dati real time che arrivano da una centrale, che sono basati su rilevamenti con il GPS, devono arrivare in fretta e l'utente dopo 7 secondi già inizia a innervosirsi. Quindi vuol dire che oltre quel che un dato di ricerca si trova, loro hanno detto fino a 10, poi hanno detto per oltre 10 è la morte, quindi significa che deve essere rapido e affidabile, altrimenti lo dicono loro stessi, dopo un po' perdiamo la fiducia, non lo useremo più. Quindi certo, basta una cattiva esperienza, basta una brutta esperienza, io ricevo l'informazione sbagliata, mi aspettavo di andare giù e trovare subito il bus perché è in tempo reale, caspita, mi dicono, poi aspetto 20 minuti sotto la neve e a quel punto, come dire, abbiamo perso un utente. Il rischio è elevatissimo, potrà provare una seconda volta, se la seconda volta succederà lo stesso l'abbiamo decisamente a quel punto è perso. Questa è un'indicazione molto importante che dobbiamo dare, perché insomma nel fare questi progetti, nell'avviarli, bisogna sapere che c'è il rischio, per strappare l'articolo di giornale, si fanno al momento sbagliato, quando non si è pronti, e si compromette tutto. Invece che cosa vogliono gli utenti? Qualche cosa che hanno, chiedono fortemente? Gli utenti chiedono fortemente una serie di cose. La velocità, l'affidabilità è data per scontata, l'abbiamo visto prima. Poi vogliono avere, naturalmente, sapere esattamente tra quanti minuti, virgola, secondi passerà l'autobus, sì. La congestione sul loro il boulevard periferique, quando è, quanto durerà, se c'è uno sciopero, se c'è una manifestazione, quali sono le strade alternative. Vogliono sapere tutto quello che ci succede sul territorio, con anche l'anticipo dell'ora, quindi la previsione un'ora è fondamentale per organizzarsi. Senta, l'incubo degli automobilisti, trovare parcheggio, immagino che anche qui qualche richiesta precisa sia venuta fuori. Assolutamente, tra le priorità che hanno è sapere che se loro poi, in Francia in particolare, perché quello che è venuto fuori in Francia, hanno i parallèles, che sono dei parcheggi di interscambio rispetto ai mezzi pubblici. Loro dicono tutte le volte arrivo e non trovo posto e giro e perdo tempo. Voglio sapere quando arrivo se c'è il posto, se non c'è mi devi mandare esattamente al parcheggio in cui trovo posto, non voglio perdere tempo. Il parcheggio per loro è cruciale ed è quello che permetterà di avere un maggiore modal shift, lasciare la macchina prima e poi andare sui mezzi pubblici. Grazie Cristina Pronello. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana.